Mio padre è stato per diversi anni fondatore e presidente poi del Club Forza Azzurri, un club di tifosi che ha avuto forse la caratteristica di cercare di tenere unita la passione azzurra nel momento più buio, perché si era in C2, da quella C2 da cui non si riusciva ad uscire. 20 anni di C2 sono davvero un'eternità, ma si era riuscito comunque negli anni, diciamo così, migliori o meno bui, a ricreare un entusiasmo. Avevo un club con 1500 soci. Direi che la passione per il Novara ha unito la mia famiglia, mio padre, io e anche mia madre, che si è altrettanto legata alla passione azzurra.